America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Un voto importante, anzi importantissimo, ieri alle Nazioni Unite. Basta alle vendite torbide di armi convenzionali, basta alle vendite a regimi che utilizzano i loro arsenali per reprimere la popolazione civile, arrivando poi in molti casi a uccidere donne e bambini. Ecco, è di questo che si è parlato ieri alle Nazioni Unite e soprattutto, come vi ho detto, si è votato per un nuovo trattato, un trattato che impone dei limiti alle esportazioni di armi, quindi il paese esportatore dovrà autolimitarsi se una serie di parametri messi a punto dalle Nazioni Unite dimostreranno che il paese che riceve le armi è in violazione di una serie di diritti umani. E ci sono quindi le componenti statistiche, dal numero dei morti causati da interventi violenti del governo al numero di soppressioni violente di dimostrazioni e così via. Si stabilisce una graduatoria, in base a questa graduatoria il paese X, se viene ritenuto in difetto, non potrà ricevere degli armamenti convenzionali. Ecco, ricordo, stiamo parlando di armamenti convenzionali, ma convenzionali non vuol dire soltanto fucili, pistole o armi automatiche, ma convenzionali vuol dire elicotteri d'attacco, carri armati, bazooka, navi da guerra, piattaforme per il lancio di missili e soprattutto le munizioni relative agli armamenti la cui esportazione al paese X è stata bandita. Insomma, una svolta molto importante. Per darvi un'idea dell'adesione, 154 paesi hanno votato a favore, dunque una larghissima maggioranza su 193 paesi membri. Forse non sorprenderà sapere che coloro che hanno votato contro sono stati Iran, Siria e Corea del Nord, che naturalmente saranno oggetto di questi limiti alle esportazioni. Però si sono astenuti e dunque hanno dato una manifestazione di dissenso paesi anche come la Russia, un mix di paesi africani e latino americani. Dopodiché Iran, Siria, Corea del Nord la settimana scorsa erano riusciti a far deragliare un primo tentativo di voto. Pensate che questo progetto è in fase di lavorazione da 7 anni, quindi era un progetto molto complesso, molto difficile. Alla fine ieri c'è stato questo sblocco. Poi una lamentela di fondo di Indonesia, Russia e Siria. Perché? Perché il trattato punisce solo i governi in carica, ma non specifica che il blocco di vendite di armi debba essere esteso anche a gruppi di ribelli che magari cercano di stabilizzare un governo o uno Stato. Può sembrare in effetti una situazione illogica. La risposta dei paesi occidentali è stata che i movimenti di liberazione nazionale dovevano essere esclusi in quanto debbono essere protetti da governi che abusano della loro autorità e del loro potere. Ecco, entriamo qui in dettagli un po' tecnici, ma devo dire che ieri abbiamo assistito veramente a una svolta importante alle Nazioni Unite. Ho con me i microfoni di America 24 l'ambasciatore Cesare Ragaglini, che è il rappresentante permanente italiano alle Nazioni Unite, che ha lavorato a lungo a questo trattato e anzi lo abbiamo avuto ospite qualche tempo fa quando avevamo già sollevato la questione, quando ci si trovava però ancora a metà del guado. Buongiorno ambasciatore. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Eccoci ambasciatore. Beh, dunque, insomma, ne abbiamo parlato qualche tempo fa, eravamo un po' a metà del guado, come ho detto. Sarà soddisfatto? È una svolta importante? Siamo molto molto soddisfatti, l'Italia in particolare è molto soddisfatta. Noi abbiamo già lavorato l'anno scorso su questo, tutto il mese di luglio avevamo raggiunto quasi un accordo su un testo, poi per tutta una serie di motivi alcuni paesi erano riusciti a farlo rinviare. Adesso in questi 10 giorni di marzo abbiamo lavorato tutti molto intensamente e siamo arrivati a questo accordo che noi riteniamo sia una pietra miliare in una delle più controverse questioni delle relazioni internazionali, perché è molto molto difficile. Questo è un trattato che è una sintesi delle posizioni dei paesi produttori e paesi importatori. Produttori, in effetti è importante dirlo, perché per esempio la Russia è un grande paese esportatore, il giro d'affari che ruota attorno agli armamenti è di circa 70 miliardi di dollari l'anno, quindi e qualcuno lamentava, dice, ma qui si va a danneggiare un settore economico che poi è normale perché serve a ricostituire le forze armate di paesi assolutamente legittimi. C'è quel rischio? Beh, come dicevo, è una sintesi fra posizione per i paesi produttori, per i paesi importatori e per, secondo noi, rappresenta un vero e proprio salto di qualità in uno dei temi più delicati delle relazioni internazionali. Il trattato riesce a conciliare questi aspetti e ha dei punti veramente qualificanti, perché innanzitutto ogni Stato dovrà stabilire un sistema nazionale di controllo interno che regola il commercio delle 7 categorie di armi che lei ha citato prima. Questi due aspetti più qualificanti riguardano ovviamente i motivi per i quali non potranno essere concesse le autorizzazioni all'esportazione. E in particolare vi è un vero e proprio divieto di concedere questa autorizzazione all'esportazione in presenza di tre situazioni ben specifiche, che è chiamata la Golden Rule, e cioè se l'esportazione viola le disposizioni del Consiglio di sicurezza, in particolare l'embargo sulle armi, se l'esportazione viola gli obblighi internazionali dello Stato in questione, previste da accordi internazionali di cui lo Stato è parte, e se al momento di concedere l'autorizzazione lo Stato esportatore ha conoscenza che le armi potrebbero essere usate per commettere un genocidio, crimini contro l'umanità, attacchi diretti contro le popolazioni civili o altri crimini di guerra che, come lei sa, sono peraltro poi definiti anche da altri accordi internazionali. Il secondo punto qualificante riguarda la disciplina sulle procedure che uno Stato deve seguire prima di concedere l'esportazione, in quanto lo Stato ha l'obbligo di valutare, uno, se all'esportazione di armamenti contribuisce a mettere a rischio la pace e la sicurezza internazionale, se tale esportazione può essere usata per commettere serie violazioni del diritto internazionale umanitario e diritti umani, terrorismo o di criminalità organizzata transnazionale. Se fatta questa valutazione, lo Stato ritiene che vi sia un rischio evidente che questi aspetti negativi si possano produrre, questo Stato dovrà negare l'autorizzazione. Quindi la responsabilità è sullo Stato, non soltanto sulle Nazioni Unite che invece danno le direttive. Però c'è un punto su cui, legato alle Nazioni Unite, su cui alcuni paesi, appunto l'Iran, la Siria, la Corea del Nord, si sono lamentati. Dicono, cioè, voi impedite le vendite ai governi, ma non impedite le vendite a dei gruppi che possono destabilizzare un governo, a gruppi di ribelli. Ecco, come la spieghiamo questa apparente contraddizione? Il testo del trattato è una sintesi tra posizioni, quindi nessuno ha potuto avere il massimo di quello che riteneva di poter ottenere. Non è un caso che Iran, Siria e Corea, peraltro sottoposte, come sappiamo, a un embargo delle Nazioni Unite, si siano ribellate a questo, però le decisioni del Consiglio di sicurezza sulla base del capitolo 7, cioè per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, è uno dei cardini delle relazioni internazionali sulla quale si basa il mantenimento della pace e della sicurezza. Ecco, dunque, una pietra miliare, una svolta storica, ancora un po' di lavoro da fare. Le Nazioni Unite lavorano simultaneamente su più fronti. Ecco, volevo proporvi un piccolo estratto, perché il segretario generale delle Nazioni Unite, mentre l'Assemblea Generale era impegnata a questo voto, in realtà era in viaggio in Europa. Vediamo dove. I'm discussing with the San Marino government today. Avete sentito, San Marino, il segretario generale delle Nazioni Unite, è in visita a San Marino, dico, insomma, un paese, una nazione indipendente, ma relativamente piccola. Perché? Beh, perché per il secondo anno il segretario generale ha deciso di visitare questi piccoli paesi. Ogni membro delle Nazioni Unite è un voto. In quei 193 paesi ci sono anche San Marino, cioè Andorra, il Principato di Monaco, e dopodiché la settimana prossima visiterà il Vaticano, sarà in udienza papale, quindi un grande, importante incontro. Visiterà anche paesi più grandi, la Spagna, l'Olanda e poi l'Italia la settimana prossima, un incontro previsto col Presidente della Repubblica e con il Presidente del Consiglio. Ma c'è questa attenzione ai piccoli paesi, e passando da San Marino il segretario generale si è anche fermato a visitare il centro per riabilitazione dalla droga di San Patrignano. Compassion for all of you. Passione e compassione, avete sentito, il segretario generale dell'ONU ha parlato a questi giovani, c'erano 1300 ragazzi della comunità di San Patrignano e naturalmente ha detto che le Nazioni Unite stanno lavorando anche per loro, per la pace, per la prevenzione della droga, del crimine, e dunque c'è un appoggio. È stato molto interessante, devo dire toccante, vedere come la grande organizzazione internazionale arriva poi sulla linea del fronte. Ecco, ambasciatore, un commento, insomma, il fatto che il segretario generale sia venuto a San Marino e poi a San Patrignano è curioso, in fondo due piccole visite nel contesto dei problemi mondiali. Non è assolutamente strano che il segretario generale visiti piccoli paesi che sono oltre 100 alle Nazioni Unite e hanno un ruolo di grande moderazione e di grande mediazione fra i grandi interessi globali. Per quanto poi riguarda la visita a San Patrignano, sono molto felice che il segretario generale abbia accettato il mio invito, perché San Patrignano è sicuramente uno dei centri più grandi al mondo per il recupero dei tossicodipendenti, è uno dei meglio organizzati e ha il più alto grado di successo nella riabilitazione e nel reinserimento nella società. E questo è uno degli argomenti principe delle Nazioni Unite, che lottano contro la criminalità organizzata, in particolare sul traffico illecito di stupefacenti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dire, oggi abbiamo parlato di speranza che ci siano meno armi per uccidere civili, speranza che ci sia meno traffico di droga. Le due cose poi in fondo sono molto legate, perché questi trafficanti di droga spesso hanno delle armi pesanti, persino potrebbero avere sicuramente degli elicotteri d'attacco, sicuramente delle armi pesanti. E dunque, in nome di questa speranza, vi propongo Let the Sunshine come canzone del giorno, tema musicale di Hair. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!